definitivo, dopo la festa. Ho bevuto troppo e mi fa male la testa. Quando cerchi una cosa, sparisce, non c'è. Dov'è il bicarbonato, l'aspirina, il caffè? Non mi ricordo, dovevo far qualcosa. E per ricordare, non bevo gazzosa. C'è sempre un modo per farsi del male. Mi posso ubriacare, posso fumare. Era questo che si pensava per me. Ero un bel bimbo, bravo in matematica. Poi sono cresciuto con mille perché, con un corpo grosso e un'anima spettica. Non ho ancora capito chi accende un temporale, perché io l'orologio, tutto per terra. Non metto mai a posto per fare presto. Sembra Guernica, sembra la guerra. Quel muro lo affresco, magari in agosto. Suona la porta, meglio non aprire. La mia paranoia mi torna un pensiero, perché ho questa testa che mi fa soffrire. Non posso crederci, sarà proprio vero? Senza demenza. Certo che è un sogno, neanche da dire. Vivendo così, starei in sofferenza. Ti dico scemate, e hai anche ragione. Parole ammucchiate, senza opinione. Tra il serio e il poco sociale, mi sfugge il senso del razionale. Tra poco mi sveglio e sarò certo sobrio. È solo questione di un giusto equilibrio. Sull'onda c'è vita nascosta.